America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, settimana di fuoco. Si apre una settimana di fuoco per la politica americana, per Donald Trump, per i repubblicani, per la riforma del sistema sanitario, per l'abolizione di Obamacare con l'obiettivo di sostituirla con un progetto del tutto repubblicano. Sentiamo Donald Trump. It would be so great if the Democrats and Republicans could get together, but we won't get one Democrat vote, not one. Ecco, Trump dice la riforma sanitaria sarebbe una gran cosa se i democratici e i repubblicani potessero stare assieme, collaborare, ma non avremo nessun voto democratico, neanche uno. Loro vogliono solo fare resistenza, questo è ostruzionismo. Ma il problema per Donald Trump non sono i democratici, il problema sono i repubblicani, perché ci sono 5 senatori contrari, hanno già annunciato di essere contrari, 7 sono indecisi e Trump non può permettersi più di 2 defezioni. Dunque, le probabilità a questa mattina che il progetto passi, se si voterà adesso, si voterà fra pochi giorni, sono piuttosto basse. Fra i senatori contrari, Dean Heller del Nevada, Ron Johnson del Wisconsin, Mike Lee dello Utah, Rand Paul, ve lo ricordate, il grande Rand Paul del Kentucky, che fu concorrente di Donald Trump durante le elezioni presidenziali, durante le primarie, e poi l'altro ex candidato alle primarie, Ted Cruz del Texas. Il problema è che ciascuno di questi candidati soffrirebbe dal punto di vista di questa riforma sanitaria. Dean Heller, per esempio, prendiamone uno del Nevada, si deve ripresentare proprio adesso a novembre per un voto per essere confermato al Senato. I Nevada non sono contenti di questa riforma. La sua base elettorale si appoggiava sulla riforma di Barack Obama. Il progetto di Donald Trump prevede una diminuzione delle tasse, ma va a compensare le spese che andranno per finanziare la sua riforma con una riduzione del Medicaid, che è il programma sanitario dei più poveri, quello su cui molti nel Nevada poggiano. Dunque l'equazione per Donald Trump, di nuovo, non è così semplice. La partita è difficile. Certo, resta il fatto che i democratici, come sappiamo, non navigano in buone acque. Su una partita di questo genere possono vincere solo perché sono i repubblicani ad essere spaccati. Il loro problema è che i democratici si raggruppano insieme, parlano male di Donald Trump perché ovviamente non condividono la sua politica, ma non condividono neanche il suo modo di essere, il suo modo di pensare, il suo modo di esistere, i suoi capelli, il suo rapporto con le donne. Insomma, non gli piace niente di Donald Trump e quindi si sostengono l'uno con l'altro e pensano che a quel punto tutti gli altri la devono pensare come loro. Ebbene, dice Maureen, non è andata così. Perché nonostante il Partito Democratico fosse in difficoltà, hanno perso in 4 stati. Ci sono state elezioni parziali recentemente in 4 stati. E allora dove si rifugiano i democratici? Beh, ieri si sono rifugiati in un evento straordinario dove in qualche modo l'hanno fatta da padroni. Great day, just beautiful, beautiful day. Could not ask for any better weather and the turnout is spectacular. Some 2 million spectators that are here. And wow. It seems like just the numbers continue to grow up even. 20.000 persone, il Gay Pride Parade, 20.000 persone che hanno marciato ieri nel 48esimo Gay Pride Parade di New York. Un mare di bandiere arcobaleno. Ieri notte l'Empire State Building era arcobaleno. Si celebra che cosa? Beh, si celebra l'evento del 29 giugno 1969, quando proprio qui a New York, al numero 53 di Christopher Street, centinaia di persone dentro lo Stonewall Inn, che era un locale gay, reagiscono quando i poliziotti fanno irruzione. Ecco, è stata quella a New York, al Village, nel 69, pensate, la prima ribellione. Ci sono stati decine di feriti, ma è la nascita del movimento di resistenza che poi ha portato 35 anni dopo alla legittimazione da parte di molti stati del matrimonio omosessuale. Questa è l'America che è in grado di dare sfogo, spazio a movimenti per i diritti civili come questo dell'LGBTQ, e l'America che dall'altra parte, sempre nella stessa città, è stata in grado poi di esprimere un personaggio come Donald Trump, che ha conquistato gli umori del paese come i democratici, nonostante manifestazioni come quella di ieri, non sono riusciti a fare. Una base come questa è importante, ma il paese è molto più grande di quello che possono pensare i democratici di oggi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Bene, cosa dirà Donald Trump ai suoi per il voto al Senato? Trump che tra l'altro ieri ha scaricato un bombardamento di Twitter ripescando il Russiagate, attaccando Barack Obama, Hillary Clinton, loro lo sapevano ma se la prendono con me, cerca di distogliere l'attenzione ma deve concretizzare dunque con The Ranch. Questo è il messaggio che darà il presidente. Hank, don't fail me now. Hank, non mi abbandonare adesso. I had a heck of a time getting in on my house today. There was a big ass U-Haul trailer in my way. And she was headed for the car. So I grabbed my old guitar. I got one more chance before she drives away. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.